sorelle, irmãs, ho deciso di indire per tutta la Chiesa, convocar para toda a igreja, il 7 settembre prossimo. Vigilia della ricorrenza della Natività di Maria, Regina di Maria, Rainha da Paz. Una giornata di digiuno e di preghiera per la pace in Siria, in Medio Oriente e nel mondo intero. E in todo mondo.